sarà sempre una musica vera che non smetterà mai di vibrare nell'aria. Ed eccoci qua, ragazzi, uoli. Bentornati, ragazzi, con l'angolo d'Ertampio. Seconda stagione, ragazzi. Prima puntata della seconda stagione. Si parte subito carichi carichi con la stessa sigla della scorsa stagione. Cambia però la collocazione, la posizione del Tampio. Infatti adesso sono ancora più legittimato a dire Tampio, perché sono proprio in Spagna, ragazzi, più precisamente alle Isole Canarie, più precisamente a Maspalomas de Gran Canaria. Un saluto a tutti, ragazzi, da questo paradiso, e siamo qui per una nuova stagione del Tampio, tutto rimodernato, ragazzi, tutto nuovo, tutto sviluppato, nuove idee. Stiamo ripartendo con la radio a bomba, e vi dico io che vi ho preparato come prima puntata. Non potevo che fare una puntata sulla prima puntata della seconda stagione. Questa è stata la mia puntata, ovvero spiegare perché ho fatto questa radio. Ebbene sì, ragazzi, è arrivato il momento di spiegare perché ho deciso di fare questa radio. E il motivo è perché mi è sempre piaciuto il lato, cioè mi è sempre piaciuta la musica. Però ecco, io quando sentivo parlare persone di musica che dicevano "ah, a me piace la musica", però vedevo che c'era qualcosa che non mi convinceva. Cioè, non... questa mi piace la musica, però non interessarsi magari dell'artista, delle correnti, sia di pensiero sia artistiche. Cioè, mi... Boh, dicevo che ti piace. E poi ho capito che magari era un... mi piace, nel senso, mi piace quello che sento, il ritmo, la musicalità. Però appunto manca, cioè la musica comunque ha anche un'altra anima molto molto importante, che è quella del valore comunicativo. Cioè, comunque fare musica è nato anche perché si volevano comunicare certi concetti che è molto difficile comunicare a parole e basta. Quindi comunque non dobbiamo far perdere alla musica questo valore comunicativo, che anche se non è a parole, comunque è una trasmissione di emozioni, di visioni. Anche a me piace vederla così, piace vederla come una visione artistica che appunto viene espressa, perché appunto se tu sei un artista comunque vieni da una visione di un certo tipo e avrai un punto di vista sicuramente particolare e uno spirito di osservazione anche non banale, e quindi è molto interessante andare a scavare dietro questo messaggio, no? E infatti poi ho iniziato a tradurmi dei testi, tipo dei Metallica, raga. Voi non direte mai, ma Metallica sono una delle band contro il sistema più... Dice, beh, ovvio, però c'è cose tipo... mi ricordo il Dio che ti ha tradito, no? Che ha fallito. C'è una canzone, l'ho messa pure nelle scorse stagioni, nelle scorse puntate, che parla proprio di come è inutile credere in una divinità, cioè di come è stata creata la religione, cioè proprio cose... Dicevo, cazzo, questi... Cioè, non è che dicono Satana e strillano, cioè questi sono a favore discorsi importanti, cioè cose su cui comunque non se ne parla. Cioè, io questo mi aveva scaturito questa curiosità, dico perché a scuola nessuno mi parla comunque se è giusto o meno seguire una religione, qual è, non so, i vari retroscena. Ho detto perché una band considerata satanista invece comunque c'ha un punto di vista più critico, più oggettivo di quelli che poi effettivamente mi dovrebbero spiegare quello che è la cosa. E quindi io ho detto forse nella musica c'è di più di quello che penso. E niente, quindi ho iniziato a cercare musica comunicativa, così la potremmo chiamare, la musica che mi piace mettere, che mi piace ricercare. Mi piace quando si sente il messaggio dell'artista e che viene proprio trasmesso con una bam, come se fosse una botta, come se fosse Maccio, la botta. E quindi niente, diciamo che il mio programma è basato su questo, su trovare queste canzoni, scovare queste canzoni, e, oppure questi artisti, perché anche gli artisti hanno, tipo sto preparando la puntata su Caparezza, e anche gli artisti magari appunto incarnano una certa visione che poi nelle varie canzoni si va a sviluppare. E quindi niente ragazzi, vi dicevo che secondo me una canzone è importante anche per quello che comunica, e per questo secondo me questa è la canzone più bella al mondo, perché comunica il messaggio più bello del mondo. Non dimenticare mai da dove vieni e dove vai, non ti vergognare mai, anche se lavori al bar e non hai la Mastercard, sei comunque una superstar, nella vita sua chiunque una superstar, anche se non hai la smart, giri con la metro e il tram, sei comunque una superstar, nella vita sua chiunque una superstar. Hey! Questo è per quelli che si sbattono, fanno di tutto per il bene di chi amano, però se hanno un sogno non lo lasciano e non si arrendono e continuano a sognare sempre un po', altro che star dello spettacolo, tirare avanti a volte qua sembra un miracolo, lo so, si tiene duro fino al sabato, ma ciò che conta veramente è fare il meglio che si può. C'è tanta gente che ci critica, critica, si sente in gamba allora giudica, giudica, sta con chi conta e ci discrimina, discrimina, anche se alla carta poi in realtà si sente povera, questa è la vita allora vivila, vivila, è tutto vero, non è il cinema, è il cinema, se suona male cambia musica, perché nella realtà sei tu la superstar. Bevi birra e non champagne, non ti vesti come la Poelcan, sei comunque una superstar, nella vita so chiunque una superstar. Hey, non hai fatto l'università, ma è stato a Cinecittà, sei comunque una superstar, nella vita so chiunque una superstar. E se domani non so ancora come sarò, oggi so che già c'ho più di ciò che si può, ma tu pensa che mi pagano se faccio il mio show, e che da piccolo dicevo questo è ciò che farò, e so che gli amici che ho sempre li avrò, e so che ti amerò finché vivrò, se quando andremo al mare non avrò uno yacht, starò con te sul pedalò, anche se lavori al bar e non hai la Mastercard, sei comunque una superstar, nella vita sua chiunque una superstar, anche se non hai la smart, giri con la metro e il tram, sei comunque una superstar, nella vita sua chiunque una superstar. Hey! Non dimenticare mai da dove vieni e dove vai, non ti vergognare mai, perché ciò che sei non c'entra niente con quel che hai. Non dimenticare mai da dove vieni e dove vai, non ti vergognare mai, perché ciò che sei, oh. Sapessi quanti se la tirano, fanno gli splendidi, li chiami e non si girano, per te sono importanti e non ti filano, ma invecchiano da soli senza amici intorno a sé. Io vivo con un altro spirito, a tanti soldi preferisco il tempo libero, per me non mi interessa cosa dicono, credo nei sogni e nelle idee. Bevi birra e no champagne. Che bello, regà. perché è bella questa canzone? Che dice uno dei messaggi che a me piacerebbe di più far passare è che tu non ti devi paragonare con gli altri per sentirti qualcuno di importante. Tu puoi dire: io sono una bomba, a posto, senza problemi. Non serve. Non ci sono degli standard, tipo io ho fatto questo, quindi sono un grande, tu sei meno. Tu devi credere di essere un grande, di avere qualcosa che ti piace e che ti spinge. Comunque sì, questa ragazzi è una puntata sulle canzoni più comunicative della prima stagione. Un remake. No, non si dice remake. Cazzo, non so come si dice. Quando... mo lo cerco. Nel frattempo, regà, un ricaccione. Che però questa... poi la voglio bella bella commentare, perché il significato non è banale. Lui mette sempre queste metafore molto complicate. Ne parliamo dopo, ne parliamo dopo. Una prima stima, mio caro ragazzo, dovresti convenire che tu sei pazzo. Mica Van Gogh, mica Van Gogh, mica Van Gogh, tu sei pazzo. Mica Van Gogh, mica Van Gogh, mica Van Gogh, tu sei pazzo. Mica Van Gogh, mica Van Gogh, mica Van Gogh, tu sei pazzo. Mica Van Gogh, tu sei pazzo. Mica Van Gogh. Van Gogh? A 16 anni giro tra collezioni d'arte, tu 16 anni Yu-Gi-Oh, collezioni carte, a 20 anni nel salon del Louvre, tu nell'autosalon del SUV rimani in mutande, lui olio su tela e creò dipinti, tu olio su muscoli, gare di bodybuilding, lui paesane, modelle, prostitute, tu passi le notti nel letto con il computer, lui ha talento, lo sai, tu un po' che non l'hai, lui scommette su di sé, tu poker online, lui è saltato per aver incontrato cocaine, tu è saltato per aver pippato cocaine, lui ha senso e poesia, tu senza poesia, lui ha tra le dita, ma non ti ammazzo. Avrò pietà di te perché tu sei pazzo. Mica Van Gogh, mica Van Gogh, mica Van Gogh, tu sei pazzo. Mica Van Gogh, mica Van Gogh, mica Van Gogh, tu sei pazzo. Mica Van Gogh, mica Van Gogh, mica Van Gogh, tu sei pazzo. Mica Van Gogh. Sbagli tutto quando fa un gol. Fai la coda per lo smartphone. Cheeseburger, allucinazioni che alterranno la vista, tutti fai di funghi ad Amsterdam, ma ciò non fa di te un artista, in fissa con i cellulari, lui coi girasoli, girare con te è un po' come quando si gira soli, colpo di mano cambia il vento come a ruba mazzo, c'è una novità ragazzo, tu non sei più sano, tu sei pazzo. Mica Van Gogh. Scusate per l'intervento brusco, ma lo devo fare per forza. E questo, ragazzi, c'è uno dei concetti più fighi secondo me. Cioè che lui paragona la pigrizia dei nostri tempi con Van Gogh, ma non con Van Gogh, col fatto che, cioè, tu dici, quello era pazzo, no? Vabbè, si è tagliato l'orecchio. Lo sapevamo tutti. Dici, troppo sano non sarà. Però dici, tu alla fine che fai? Navita. Per dire che uno che ha fatto dei quadri. Il suo passare alla storia è matto. Tu saresti il genio. Saresti tu il genio della storia. Ma secondo me no. Lui ti dice: tu fai la fila per comprarti un telefono. Tu un po' di matta a nessuno, sì. Cioè, tu calcola, manca uno che fa il disegno su Paint. Forse puoi dire che è matto. Pensa a uno che sa fare un quadro. E infatti questo è anche questo. Questo è anche questo, sì, è giusto. E la puntata flashback, comunque, forse non remake. Anche questo è il tema di questa puntata, era flashback. Sulle canzoni più comunicative che ho passato nella prima stagione. Come avevo accennato anche prima, c'è un'attenzione da porre anche su chi le fa. Tadan! Fare una canzone, sei un artista? Questo è un dibattito che sento sempre fare da molte persone. Tutti dicono: nessuno può dire chi è un artista. Io lo dico, non me frega niente. Ho sempre detto che nessuno poteva fare cose, poi alla fine se ci provi magari ci riesci. Un artista, secondo me, banalmente, è una persona che riesce a comunicare attraverso un'opera. La cosa fondamentale, regà, che non riesco a... cioè che non vedo apprezzare, è che... cioè... che comunque anche, come vi dicevo, la persona è un centro di riferimento. E quindi è molto importante, cioè, nel senso, più che molto importante, assume valore. Se questa persona, secondo me, riesce a comunicare effettivamente quello che intende. Cioè, questo è un punto di vista che può sembrare banale, però non è a mio gusto. Io non devo dire se piace a me è un bravo artista, se non piace a me è un cattivo artista. Ma appunto giudicare il suo valore comunicativo. Cioè, se quella persona voleva comunicare rabbia e l'ha fatto con un disegno, quella persona è un artista, perché attraverso un disegno comunica la rabbia. Poi un artista che piace a te, se a te ti piace il disegno. Un artista che non ti piace, se non ti piace il disegno. Se quella persona, tipo questi che abbiamo sotto, c'è una frase qui che dice: perché la strada per la saggezza è sempre macchiata di sangue. Secondo voi questi vogliono fare una canzone tanto per... c'aveva uno scopo? È un valore comunicativo. Cioè, loro ti comunicano della saggezza, in qualche modo. Non delle semplici frasi che stanno bene l'una con l'altra, ma una storia. E lo fanno mettendo la musica che proprio si entra in simbiosi con quella storia. Per me è questo l'artista. Poi c'è il tuo giudizio personale, che parte da dopo aver compreso queste cose ed assaporato queste cose. E quindi vi dicevo che se una persona, una band o chi per loro riesce a comunicare, a creare un contenuto audio che riesce a comunicare a livello globale un qualcosa, non può essere ignorato. E soprattutto, ragazzi, non può derivare da una persona qualsiasi. Deve essere per forza una persona, una band, un insieme di persone che hanno un certo trascorso, che appunto hanno una visione della vita non banale, hanno uno spirito di osservazione molto molto sviluppato. Ecco perché noi siamo qui a fare le puntate su di loro e a chiederci quello che dicono, e appunto stare anche attenti a magari non scambiare personaggi che creano contenuti appositi per fama come persone che sono in grado di comunicare a livello globale. E secondo me tu comunichi a livello globale solo se quella cosa tu la senti, tu sai di cosa stai parlando. Non puoi comunicare a livello globale se appunto non è una cosa che tu provi. E questo è fondamentale. Sappiamo che tutti sono diversi, quindi non esistono messaggi che vengono compresi da tutti e che sono universali. Cioè, oddio, detta così non sono proprio... No, ok, non volevo intendere... Aspetta... Ok, me lo cambia. Cioè, dire che non ci sono messaggi universali, no. Anche perché è proprio il contrario di quello che fa. Cerco di trovare dei messaggi universali. Però ecco, intendevo più fare riferimento magari a quelle cose in cui ci riconosciamo tutti, no? Magari tu fai una canzone che dici: ah, ho lasciato la mia ragazza. Ok, dici: ah, pure io ho lasciato la mia ragazza, allora questa è una bella canzone. Era questo quello che volevo intendere, cioè nel senso, non è questo un comunicare. Appunto, se tu comunichi una cosa personale, possono esserci effettivamente delle persone che ti sono contrarie. Questo intendevo con non c'è universalità. Perché se è tua, è probabile che ci sia qualcuno che sia contrario, anche se tu sia una persona perfetta, brava. Quindi queste canzoni, questi fenomeni globali, no? Questi, non lo so, Sfera Ebbasta, io non so più chi c'è, so solo che Sfera Ebbasta è company, cioè persone che appunto sfruttano questo tipo di globalità del messaggio, cioè la semplicità di poter essere ascoltata da tutti. Però ecco, non è questo poi il valore della musica, no? Noi vogliamo le persone che ci riescono a comunicare delle cose che noi magari non vediamo. Infatti nella musica molto molto spesso c'è i messaggi, cioè sono nella musica sono contenuti i messaggi più importanti, quelli più difficili da esprimere. E quindi è giusto esplorarli e dargli un valore. C'è qui il vostro Tampillo per voi in questa stagione. C'ho pure una campanella, quindi regà, se parte e vi metto una canzone del dottor Johnny. Sapete tutti che tanto l'avrei ripiazzato. Per continuare su questo discorso della... del messaggio, della comunicazione, questa mi sa che forse non c'è bisogno neanche di troppe introduzioni, perché messaggio positivo, ecco lì, messaggio positivo, è questo che dobbiamo cercare nelle canzoni, messaggio positivo, e vediamo se lui ce lo dà, il maestro dei messaggi positivi. Johnny, nuovo album ragazzi, tra l'altro uscito da poco. Quando mi accorgo che il tempo è il mio tesoro, tic tac, sì, tutto quello che ho, tic tac, unito a ciò che odio, amo, odio, amo, ciò che odio, amo, odio, amo, ciò che odio. Chi dice noi artisti? Forse hai fatto Swish, ma non sei il nuovo Novinsky. Odio gli opportunisti, facile fare critici. Odio tutti sti monogram, Jordan e skinny jeans. Odio il sushi, le tue bullshit. Anche i sushi vestono Gucci, mille chain. Odio Philip Plain, quella merda mi disgusta. La metto appena dopo il mezzo busto di Silvio, la voce di La Russa. Odio l'oroscopo, odio le ostriche. Odio quei posti che ti soffocano come relazioni tossiche. Odio sti storyteller, ogni finto ribelle. La verità è una serpe, ha sempre una seconda pelle. Odio le repliche, odio le prediche, esperti del rap, insetti del web. Odio me, quando do peso a troppe cose non sorvolo, niente di nuovo. L'amore non risponde proprio quando odio chiama. Odio quando spreco le mie energie nell'odio. Tengo tutto dentro fino a quando esplodo. Le cose che amo sono una miriade. Amo quando mi accorgo che il tempo è il mio tesoro. Tic tac, sei tutto quello che ho. Tic tic tac, unito a ciò che odio. Amo, odio, amo ciò che odio. Amo, odio, amo ciò che odio. La canzone si chiama Odio, amo. Troppo, non so che fobia sia, lo so che sembra folle, ma a volte non mi sopporto. Quindi se odio quel che faccio, a volte sono d'accordo. Odio i cospiratori, amore forte come Casa Pound e Nina Moritz. Quanta poesia là fuori, chi fa l'icon, l'idol, ma è solo un pezzo del mosaico. Mi sta sul cazzo come Laikos. Uomini d'onore fanno i cantanti. Odio chi parla tanto come Charles Barkley. Non sopporto Chiambretti, Vittorio Sgarbi, Rudy Zerbi, Bonolis e Laurenti. Odio i fratelli, con la data di scadenza che ostenta. Chi fa il superiore ma ti osserva la saccenza. La pochezza, la poca trasparenza, l'apparenza, i rapporti di convenienza, minchia che odio quando spreco le mie energie nell'odio. Tengo tutto dentro fino a quando esplodo. Le cose che amo sono una miriade. Amo quando mi accorgo che il tempo è il mio tesoro. Tic tac, sei tutto quello che ho. Tic tic tac, unito a ciò che odio. Amo, odio, amo ciò che odio. Amo, odio, amo ciò che amo. Il respiro del mare, il sole nelle ossa. L'odore di casa, la cacciupa rimasta. La carne rossa al sangue, quando lei è felice sfoggia un sorriso raggiante. Amo le donne, viaggiare, perché il mondo è attraente. La pelle scura, la pelle chiara, la pelle, tutte le sfumature intermedie. Amo sentirmi bene, da quando ho smesso di fumare e bere compulsivamente. Ho visto finalmente un po' di luce in fondo al tunnel. Ho spento ogni dispositivo, qui nessuno mi potrà raggiungere. Amo la solitudine, quella dei solitari, perché stare bene anche da soli ci rende speciali. Amo la profondità di certi brani, canzoni immortali scritte in altre epoche e comunque attuali. Amo quando amo la vita oltre i beni materiali, perché il tempo resta il più prezioso dei regali. A volte la chiave sta nelle cose banali. Amo la serenità dei miei cari. Amo la sincerità anche quando non fa gioco, perché mostrarci per ciò che siamo ci rende umani. Amo la città che mi ha dato i natali, anche se forse non essere corrisposto mi ha tolto le forze. Amo te che mi conosci, i tuoi seni, le tue cosce. Amo prenderti a morsi, sei la mia vita. Amo te, amo noi. Una canzone, regà, su una lista delle cose che odia seguita da quelle che ama. Questo poi è un, perché è un album su una similitudine col basket, che è gara 7, che in poche parole è uno spareggio che si fa quando le due squadre hanno vinto 3 partite a testa. Quindi, diciamo, è proprio la gara dove devi dare il tutto per tutto, no? E lui l'ha paragonato un po' a questa sua introspezione e risalita, come se avesse fatto proprio la sua partita più difficile. E sono tutte comunque canzoni che riportano a questo tema. Ma questa, ragazzi, è il messaggio più positivo dopo Superstar, però, di Brusca. Si va. Piu. Non lasciare che il passato comandi il presente. Non lasciare che il futuro ti paralizzi. Nostalgia e paura non sono buoni consiglieri. Nothing good non ti porteranno niente di buono. Cioè, raga, chi è che... Cioè, a me questo che dico... Chi è che fa le canzoni dicendoti che la nostalgia è un cattivo consigliere? A me pare che fanno le canzoni su... Amore mio, ondo cazzo, stai, torna da me. 5.000 canzoni.

essere sbagliato, il trauma di essere diverso. Ma fare come voglio non ci riesco. Accetto il tuo giudizio, sommario, come Gesù accettò il giudizio degli ebrei. Vabbè, fine. La parte interessante, vabbè. Questa canzone è andata così. Sì, non lo so. C'era pure quell'altra, poi forse ne farò una più specifica. Però comunque sì, il punto era questo di non giudicare queste persone in una maniera banale e superficiale. Lui, infatti la canzone si chiama Giudizio Sommario, perché sennò, regà, è sempre la stessa storia. Sempre. No fame, no glory. No fama, no gloria. No soldi, ma solo fama da morto. Na na ra na. Non diamo a sta gente fame solo da morta, raga. Vorrei che mi guardassi dentro come ti vedo da fuori, fondendo ogni mio lineamento con i miei valori, sentendo le paure, le pressioni e i miei dolori, perché senza sfumatura cosa servono i colori, ehi? Se nelle tenebre aspetti i giorni migliori, finché non saremo cenere dei nostri mozziconi, e se ho potuto crescere solo grazie agli errori, ho dovuto solo vendere i miei incubi peggiori, ehi? Sarei un profeta ma solo dopo che muori, no fame, no money, the same old story. Voglio musica concreta, non infatti riflettori, my face got bloody, the same old story. Sai che vince la moneta ed ogni gioco a detrattori. No gain, no money, the same old story. What is the same old story? What is the same old story? Ricordo me nella mia stanza, stessa faccia, stesso dramma. La condanna di chi inganna se stesso e fa un'altra canna. E anche se ho sempre odiato le frasi di circostanza, la domanda come va, chi mi parla, dico abbastanza. Ho assegnato all'ignoranza dei giorni di vigilanza, cercato speranza negli occhi di chi si fidanza. Ho messo in testi insani l'infamia e la mia rivalsa. Non dicevo senza mani, guarda mamma senza l'ansia. E so che dovrei sembrare forte, ma l'unica variabile costante per me è il forse. Ho dato il cuore a stronze, ho preso le loro borse, le ho messe sotto gli occhi e con le gocce ho fatto cocktail. E anche se fosse il mio umore ancora corre tra altalenanti alti e bassi come un roller coaster. Ho creduto più ai poster, completo il paternoster, ma so che siamo attratti dalla morte come mosche. E le batoste che detesto mi ha messo tra i vincitori, perché dopo il sangue in bocca ho apprezzato di più i sapori. E giocare con le emozioni e coi miei demoni interiori, perché l'arte fa volare pur sentendosi inferiori. Ma iniettare delusioni nel cuore ai miei genitori, ricamare sensazioni tra neuroni, testimoni, fare ciò che voglio in mezzo a imprenditori e intenditori. Siamo solo pescatori in mezzo a un mare di illusioni. Ehi, sarei un profeta ma solo dopo che muori. No fame, no money, the same old story. Voglio musica concreta, non infatti riflettori. My face got bloody, the same old story. Sai che vince la moneta ed ogni gioco a detrattori. No gain, no money, the same old story. What is the same old story? What is the same old story? I never feel better. Surrender, there's no power. I never feel better. Surrender, there's no power. Un segreto lo mantieni, me lo giuri? Noi artisti siamo un branco di infedeli ed insicuri. Alcuni dicono fuck the police per sentirsi duri, please. È inutile come scrivere ACAP sopra i muri. Mi sfanculi e provi gusto nel dire che mi han cambiato, perché adesso non sembro più quello brutto ed impacciato. Non ho chiamato Houston perché era sempre occupato. Io sono il talento giusto nato nel posto sbagliato. E dimmi quanto risoluto sembri quando ti metti a nudo come i vermi, ti rivesti dei tuoi testi. E tu mi accuseresti, ma di cosa? Duri un giorno, ma riposa. Se non senti la poesia, dai vai di Prozac. E allora sarà faida nel Fight Club. Chi inizia morirà con la stessa penna che sguaina. Stan tutti sopra il carro dei vincenti per la laina. Ma se non scendi, chi cazzo lo traina? Perché se lo fai sarai un profeta, ma solo dopo che muori. No fame, no money, the same old story. Voglio musica concreta, non infatti riflettori. My face got bloody, the same old story. Sai che vince la moneta. Oh, ma già sfugando a pasta cosa. Sarai un profeta, ma solo dopo che muori. Perché? Perché, regà? La gente non può essere ascoltata in vita. Questa cosa mi dà un fastidio. Possibile che perché uno si deve autoconvincere della sua stupida E inutile convinzione di non sbagliare, di essere bravo, non impara da nessuno. Cioè, evita tutti i giudizi perché ha paura del giudizio. Cioè, raga, è diventato un macello sta cosa, è diventata una piaga. Una delle cose peggiori. Così, raga, non c'è crescita. Cioè, non c'è crescita, non c'è interscambio, non c'è una persona che può imparare una cosa e aiuta un altro a fare dei passi senza che lui se la impari da capo. Trasferimento di conoscenza. Niente, raga. Cioè, uno qui, se tu dici qualcosa che c'ha un minimo di senso, sei un matto scatenato, sì, un alieno. Questo ti ha fatto la canzone, mi ditelo. Cioè, lui ti dice, ha fatto l'album Suicidal, cioè, dicendo proprio, sapeva di che si sarebbe suicidato facendo queste cose, che sarà un profeta solo dopo che muore, che pure se ha fatto cose di Cristo non gli riconoscerà nessuno. E questo, raga, porco due pesa. Cioè, no, per scontato che è una cosa normale. Comunque questa, raga, una delle canzoni che comunica, cioè, la mia vita nel mio memory slot 1, in una di quelle mattine in cui non fumo. Voglio rimanere lucido fino al tramonto. Puoi restare ad ascoltare se per te è opportuno. Scatti divertenti con mio fratello Manuel. Domeniche dolci in una Palermo grave, Palermo amara. A quei tempi gli eroi avevano un posto in paradiso senza prenotare. 92 non capivo chi avesse la città. Sono cresciuto tutti guai se rimani qua, dove la faccia della gente è sbiadita come le foto di 20 anni fa. Come fa a sbiadire l'anima, dimmi, senza limiti, senza filtri, solo per ostentare, per vanità, insanità. Preparati alla precarietà, per carità e mentalità. E tu ci cresci dentro, o ti fai le tue idee e impari dai migliori, o lasci che i peggiori guidino il tuo apprendimento. L'adolescenza ha qualcosa di comico, impari che la violenza è sbagliata, ma o ti difendi o ti soffocano. Questo è il mondo, sei pronto, no? A 15 anni volevo un microfono, gridare il mio nome e dire ci sono. Ehi, sono qui per fare qualcosa di nuovo, sono solo qui per fare qualcosa di buono. I sogni, il diploma e il lavoro, ehi, l'ambizione, l'amore, il perdono, il dolore, i miei cari e sto posto in un solo frame. Ci sono, ok? Sono solo il primo che ha creduto in me. Senza poteri qui nessuno è Superman. Sì, nessuno, nessuno. Non serve che mi dici Jay non sei Michael, Jay non sei Jason Williams, Jay non sei Magic, Jay non sei parte dell'Hall of Fame. Non sei un Hall of Famer, non sei Dr. J, non sei J. Cole, non sei JD, non sei Jay-Z, non sei P.D. dei tempi di Biggie fino ai tempi in cui aveva in mano il culo di J-Lo. Senti sì, dimmi Jay, ti ho già visto Jay, ma sto disco Jay come sei? Non capisco, ogni risposta ha un filtro, un delay nell'abisso. La gente inconsapevolmente ti parla con gli occhi, involontariamente si guarda dal dirti quello che pensa. Sì, ma quello che pensa si legge spesso. La coscienza mi dice stai calmo, ripenso alle delusioni, bilancio con qualche traguardo, ripasso senza interruzione. Ora alzo lo sguardo là fuori, ho imparato che il tempo è bastardo presto. Ho i piedi per terra, non sono il futuro, ma tu mi dici Jay non sei Michael J. Fox, Jay non sei Michael Jackson. E cosa ti è concesso? Forse solo di sognare, senza limiti, senza filtri, come chi non ha smesso di lottare. Chissà chi sarei se non fossi nato qui, se questa non fosse la mia storia. Il disco si chiama Memory, affinché si fissi nella tua memoria. Palermo per sempre, JM. Sono solo il primo che ha creduto in me. Senza poteri qui nessuno è Superman. Sì, nessuno, nessuno. E olè, anche un po' sentimentale. O ti fai le tue idee e impari da migliori, o lasci che i peggiori guidino il tuo apprendimento. Ecco, questo forse è il mio concetto preferito, proprio su tutti. La, cioè, imparare da soli quello che ti serve per la crescita personale. Forse non non so se c'è qualcosa che mi interessi di più. E infatti, cioè, adoro che siano delle canzoni. Cioè, assurdo, è bellissimo pensare un concetto così, però poi mi accorgo che purtroppo devi fare le treccine, tra l'altro mi sono fatto non lo so, abiti, modo in cui ti poni, odio questa cosa. Odio che una persona che ha conoscenza e abilità deve essere giudicato come si pone. Da un cazzo, in una maniera assurda. Cioè, conferma questo giudizio superficiale dato a persone non superficiali. Una cosa straziante. Vabbè, a parte questo, è un nuovo giorno per fortuna. No, nuovo giorno è solo la canzone. Sveglia! Ricordatevi che c'è. Cioè, che tutte le... non so perché ho svegliato. No, vi volevo soltanto dire che questa puntata sta finendo e... ma ricordatevi che potete risentirla quando volete sul sito Roz Radio e che vi pubblico come sempre, come in tutte le puntate, troverete la lista delle canzoni. Però ancora meglio, se volete, c'è anche sotto, se scorrete, sotto la citazione della puntata, ci trovate il link Spotify. E dove appunto c'è la playlist con tutte le canzoni della puntata, proprio messe in ordine, raga. Cioè, proprio fatta a mestiere, come direbbe la nonna di Maccio lì. E quindi niente ragazzi, colgo l'occasione per salutarvi tutti voi che mi avete ascoltato e soprattutto per la mia community WhatsApp che continua a resistere ragazzi, grazie mille di sopportare i miei spoiler, no, spam, vabbè oggi che parole ci so. E cosa hai cambiato? Cosa ci hai guadagnato? Sì, tempo impegnato a fare qualcosa che non ti ha dato un minimo di soddisfazione. Ti ha fatto perdere la tua occasione. Cosa hai cambiato? Che hai guadagnato? Se hai rinunciato a ciò che hai sognato. Dimmi quale spazio e desideri hai dedicato. Se ti guardi indietro vedi cosa hai lasciato. È un nuovo giorno. Bella questa. Grande, grande concettone. E vi dicevo ragazzi, grazie a tutti di sostenermi, vi saluto tutti, ricordatevi di tutti i link che ci sono se siete curiosi delle canzoni e ricordatevi di iscrivermi se volete sentire delle canzoni, consigli, volete delle puntate a tema, consigliarmi un tema, tutto. Per fare tutto questo, se non siete ancora sulla community WhatsApp, a fine di ogni puntata, come vi dicevo, c'è lì, anche lì, il link per entrare in questa community. E poi c'è anche il Linktree se vi volete andare a vedere le altre cose che faccio come ripetizione di economia, streaming di Magic e ho anche un canale sull'intelligenza emotiva. Sono miei piccoli dialoghi su questo argomento che ho imparato da poco, sì, cioè in realtà è da tanto che studio su questo filone e... niente, quindi sarebbe la capacità del cervello di comprendere le emozioni. Quindi sono studi sfondo buddista, psicologici. E direi che ho detto tutto, ho salutato tutti, vi ho detto che ci sono i link, che l'appuntamento è cambiato, sarà sempre il giovedì, ci sarà sempre la campanella. Ci saranno puntate sempre più specifiche, come vi dicevo vi andrò a cercare di dare una visione di queste personalità più di spicco, ma anche cercheremo insieme magari di analizzare varie epoche storiche, tipo in questo periodo c'era questo genere, come si è sviluppato in altri generi, quindi tutto un viaggio nella musica che appunto vuole riscoprire questo valore della musica, perché è stata fatta, non per, non lo so, per vendere, ma andiamo a scoprire tutte le motivazioni dei personaggi che hanno creato musica. Detto questo ragazzi, vi ringrazio, vi saluto, c'è pure la pagina Instagram se volete che pubblico delle anteprime, anticipazioni. Detto questo ragazzi, per la prima puntata è stato tutto. e vi saluto, vi lascio con gli ultimi minuti di questa canzone, che è veramente una presa bene, ed è un augurio a tutti, come sempre, come questa puntata e come questo programma. Peace! Bella ragazzi! Ma crede che tutti hanno una fetta, qualcosa da prendere, quello che gli spetta, e dei sogni in cui credere il mondo non sospetta, non è consapevole di quello che ogni giorno succede. Io non so domani dove sarò, né che cosa farò, ma non mi arrenderò, no no, e poi no, tutto quello che ho sta nel mondo in cui sto. No, no, il mondo è anche mio, mio e dei miei cari. Il mondo è anche mio, mio, non ha proprietari. Il mondo è anche mio, mio, ma dei criminali lo vendono per 4 denari. Il mondo è anche mio, mio e degli animali. Il mondo è anche mio, mio, perché siamo uguali. Il mondo è anche mio, mio, con i suoi mali. Il mondo è anche nelle mie mani.